Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono passate da un minuto le 21 di questo martedì 21 dicembre 2010. Buonasera dal sottoscritto Agostino Spolaore, a tenervi compagnia con Maurizio Calzavare questa sera, eccezionalmente per quanto mi riguarda, in quanto purtroppo Flavio non ha potuto essere presente, il quale comunque credo ti stia ascoltando, quindi gli mando un carissimo e un calorosissimo saluto. Abbiamo un cantautore questa sera, si chiama Valerio Billeri, però prima presentiamo la fascia oraria, cioè Blu Radio Sera. Questa è una fascia che va in onda tutte le sere, tutti i giorni, dalle 21 alle 22.30, qui a Blu Radio Veneto, e nelle nostre frequenze, ve le ricordo, 88.700, 94.600. Abbiamo un sito, se volete vedere un po' quello che facciamo, i nostri interventi, i nostri servizi, e nonché anche le recensioni che facciamo sui vari artisti che passano per questi studi. E il sito è www.bluradioveneto.it, e per quanto riguarda il nostro numero telefonico, se ci volete raggiungere qui in studio, è lo 049 87 56 423. E detto questo, Maurizio, buonasera. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera sconveniamo come sempre le cose, l'organigramma di Blu Radio Sera e andiamo in live. Buonasera Valerio. Buonasera. Hai fatto un buon viaggio da Roma fino sì, a qua. Sì, molto tranquillo. Roma-Padova, chiaramente, per venire a suonare da noi. Siamo molto onorati di ciò. Grazie. Buonasera Valerio. Buonasera. Ok, cominciamo a parlare un po' di te, della tua costruzione sonora. Io ho letto nelle note... Tu hai cominciato a suonare imparando e amando la chiave intimista, cioè De André, e anche la chiave dura, complessa, rocchettara, che era quella di Nick Cave. Io ho tentato, ascoltatori, voi non lo sapete, io ho tentato di fare una cover di Nick Cave a Valerio prima di iniziare, ma non c'è stato verso. Allora, com'è il discorso? Come inizi a suonare, Valerio? Inizio a suonare per un approccio dai libri. Ah, dai libri. È un approccio diverso. Non sono partito dalla chitarra, amando molto leggere, ho sempre letto tanto in vita mia, quello che leggevo lo immagazzinavo ma non riuscivo mai ad esprimerlo in qualche modo plausibile, né con la poesia né con lo scrivere romanzi o novelle, perché è molto difficile, certo. Essendo, come si dice a Roma, un po' una capra scrivere romanzi lunghi. Ho trovato un modo di espressione nelle canzoni e imparando a sentire i cantatori, ovviamente, da Springsteen a Nick Cave, da De André a Guccini a De Gregori, essendo romano, De Gregori a Roma era molto più che Venditti per una certa... E come mai secondo te? Adesso scaviamo per il perché. Forse perché era più vicino a un certo tipo di rock americano. Esatto, molto americano. Lui ha sempre detto... Molto Dylan. Esattamente, quando ha cominciato a suonare qualcuno l'ha definito il Dylan italiano. Ultimamente è uguale a Dylan anche ultimamente come vocalità. Sì, come certamente, hai ragione. Arrangiamenti. E perciò quello è stato l'approccio iniziale. E poi mano a mano la passione è aumentata e mi ha portato verso il blues degli anni 30 americano, le ballate acustiche di Woody Guthrie. Certo. E difatti io ho sentito sia il disco da solista, il Ponte che tu hai inciso, e sia il disco con la band praticamente, che adesso ascolteremo. Il Ponte ha questa chiave di lettura, è molto blues secondo me. Sì, è molto blues. È molto blues, e anche un blues, sì, non soltanto il blues classico, ma un blues riveduto e corretto da parte sì, tua. Sì, è un blues che ho provato a mettere il blues adatto alla nostra terra. Ecco, è vero. Un lavoro difficile, perché fare blues in Italia è come fa la mazurka di periferia in Texas. Sì. E perciò ho cercato di dargli una chiave di lettura anche nei testi più avvicinabile alle nostre situazioni, o anche... all'Europa, anche se non un'Europa di adesso, sì, ho capito. Sono molto i circhi, le ferrovie, certo. Molto in bianco e nero, tipo i film di Fellini, sì, o di Pasolini. Hai detto una cosa giusta, è molto difficile fare blues in Italia, anzi quasi impossibile. O fai le cover, oppure... O fai le cover, esattamente. O fai pezzi. Roberto Ciotti è un bravissimo bluesman. Sì, lo so, hai ragione, è un bravissimo bluesman, però è stato contaminato anche lui per andare avanti. Sì. Ok, quindi hai iniziato suonando De André, suonando Nick Cave, suonando il rock, suonando il blues praticamente. Sì. E poi c'è stato un incontro fondamentale nel 1990, mi pare. Nel 2000, con Daniele Giovannoli. Sì, batterista. Batterista. Lui è un batterista che a Roma è un po' un totem. Cioè uno che suona dappertutto. Sì, suona dappertutto. Ha avuto molte collaborazioni con Daniele Silvestri, ha scritto le colonne sonore, ha collaborato con Cerami, è molto bravo. E ho avuto questa inizio di collaborazione con molti scontri fra noi due, perché cosa vuol dire con molti scontri? A parte che lui è laziale, io romanista, non so. Questo è la sana fede calcistica. E poi i nostri caratteri sono molto è arrivata la nostra fotografa, hai visto? Ciao Chiara. Ciao. E i nostri caratteri sono molto diversi e molto duri tutti e due, e perciò due leader nello stesso, però l'amicizia si fonda nella, nella band due leader valgono, servono, sì, sì. Cosa dici? No, ma siamo cinque leader. Ah, sì, ossia, adesso siamo sei, sì, sei della band. C'è libera scelta di fare quello che ovviamente nei canoni della decenza, certo. E quando c'è il derby, mi prometto, quando c'è il derby cosa succede? Giovannoni sparisce, Calascio perde sempre, perciò Giovannoni l'importante è che non ci sia, non però si vede più per anni. Non ci sono. Beh, ci vuole anche un po' di infatti io e Maurizio ci scontriamo sempre, sì, perché lui è io sono Juventino. Ah, è brutto. Ok, torniamo a parlare di musica. Sì, questo incontro con Daniele è stato importante perché avete fondato una band. I pezzi d'assemblaggio, sì. Come mai? Bello sto nome, i pezzi d'assemblaggio. Perché, come dicevo prima, ognuno mette qualcosa di suo nella musica senza limiti. Cioè, ognuno porta quello che ha. E poi il bello del gruppo è che ognuno viene da espressioni musicali differenti. Il chitarrista è un jazzista, il bassista è un rocchettaro, il batterista era un... Daniele faceva pop prima e fa ancora pop con i Carmoni, un gruppo che ha formato adesso molto bravo. E perciò ognuno mette... un gruppo aperto il vostro, sì, sì, sì. Che tu fai qualcosa di solista, il Ponte che abbiamo, sì, che è inciso da poco, è un disco solista, però la, sì, band non è staccata, fa parte, sì, del tuo progetto. Iter, del progetto, questo è, sì, importante. Fa parte, ormai 10 anni che sono insieme. Penso che sia anche difficile nel giorno d'oggi una collaborazione, sì, così lunga tra gruppi indipendenti. Hai ragione, è molto difficile perché spesso e volentieri si sfaldano, non si so per qual motivo, cioè arrivano a un certo punto, molto spesso qualche band arriva a un punto di incidere il disco tutto fatto e poi al momento giusto tac, c'è qualcosa, sì, che, sì, non funziona, sì. Ma forse l'amicizia è quello anche che... quello. Ma voi avete deciso più di un disco, mi pare, sì, quattro dischi. A proposito di questo, cosa dici, Agostino? Sì, io direi di ascoltare una canzone, okay, se tu sei d'accordo. Valerio, allora hai scelto Piove Fuoco, sì. Facciamo ascoltare quella? Ok. Ok. Il dio del vento, su ali di metallo, sorvolava l'antica città fatta d'argilla e d'acciaio. Bruciava il cielo che odorava di benzina e lasciava cadere bombe sopra la collina. Piove fuoco. Non piangere figlio mio che durerà per poco. Dalla collina del Teschio il profeta aspettava il venire dell'Apocalisse seduto su un trono di giada. Le madri disperate senza più figli da allattare allavare i panni sporchi di sangue lungo la riva del fiume. Piove fuoco. Non piange il figlio mio che durerà per poco. Piove fuoco. Non piange il figlio mio che è solo un gioco. Allora, il fronte si alzano fiamme un sogno, amor mio. Ero l'Araba Fenice e rinascevo in prosperità in un'era di luce. Le acque limpide e giusti e mille demoni su nel cielo, che a guardarli sembravano stelle ad indicarmi il sentiero. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Sempre Blu Radio Veneto, con la voce di Agostino, quella di Maurizio, ma soprattutto con quella di Valerio. E la voce femminile qui era quella di Virginia Fabbri. Virginia Fabbri, infatti, sentite. Bello, bravissimo. Faceva parte anche lei della band? Sì, faceva parte della band, adesso è un progetto da solista e con un altro gruppo, i Cromanova. No, ho capito. E adesso mi descrivo un momento l'intelaiatura di questo pezzo. Al microfono spento parlavamo io e Valerio. Questi numerosi stop and go, visto che il co-leader è proprio Daniele che dà sì, l'impostazione. Sì, il co-leader l'ha messi lui, perché esattamente. La costruzione del pezzo funziona così: arrivo in sala d'incisione o in sala prove con la chitarra acustica, suono il pezzo, e poi subito dopo lo suono con la band. Mm. E mano a mano, cioè, veniva spontaneo, basandosi sul testo, questo fermarsi, ripartire, per dare spunto alle parole. È molto, il testo è abbastanza particolare. È partito dal bombardamento di San Lorenzo di Roma da parte degli americani. Seconda guerra mondiale, sì. Della seconda guerra mondiale. E allora volevamo rendere bene l'idea del, della potenza della tragedia, praticamente. Cioè, il pezzo chi l'ha scritto? L'avete scritto assieme o l'hai scritto solo te? Il pezzo l'ho scritto io, poi la parte musicale è stata finita insieme al gruppo. Ho capito. Benissimo. Cioè un lavoro di equipe, praticamente. Sì. Dai una traccia e poi la traccia si sviluppa, si amplia. Sì. Fortunatamente. Democraticamente si amplia molto oppure? Democraticamente, però i musicisti sono molto più bravi di me. E mi sopportano parecchio. Ma sei una forma di modestia questa? No, vero. Benissimo. Facciamo un saluto al nostro direttore organizzatore artistico, che è Alberto Prisco, che purtroppo stasera non è potuto essere presente, però chiaramente è presente ascoltando. Sì. Ci sta ascoltando, credo. Sai. Lo saluto. Benissimo, allora hai cominciato con questa band. Nella band abbiamo parlato, siete in 5, mi pare. Sì, 5, aspetta che li conto, perché il bassista. Così, citiamo, dai. Alessandro Cefalì al basso, e Daniele Giovannoni alla batteria, Fabio Tempesta alle chitarre e Gianni Ferretti alle tastiere. Perciò siamo 5. 5, con te, siete in 5. E Virginia. Esatto. Virginia non c'è più. Virginia non c'è era. Più. Non si è privato, l'ho detto prima. Sì, però aveva partecipato a qualche. Quanti dischi di Virginia? Un disco. Ah, un disco solo. Abbiamo avuto due diverse coriste, Giada Olivetti in Giorni Perfetti e Virginia Fabbri in Alberi Secolari. Perfetto. Poi siamo rimasti soltanto uomini, le donne scappano. Le donne scappano. E c'è una. Voi hai detto che siete molto democratici. E come si sviluppa un concerto live della band? Quello è un po' complicato. Perché lì non è la democrazia è la loro, lì, perché io parto con i pezzi all'improvviso e loro vengono presso. Quindi fai come Dilla che non. Sì, senza canovaccio. I musicisti devono seguire. Alcune volte cambio anche la tonalità del pezzo. Ah, perfetto! Ma non perché mi scordo qual è. Capito. Bene, questa è la verità, insomma. È la verità. No. Viva la sincerità, soprattutto. Sì, vabbè. Insomma, tante volte i musicisti sono visti come esseri al di fuori del mondo, come dei santoni. Non è vero niente. Non è vero. Se danno questo atteggiamento, ma insomma. Beh, c'è qualcuno che si atteggia comunque. Sì. Se danno questo atteggiamento. Ma potevi dire, Valerio, sì, perché io do un'impostazione. Cosa dici, Agostino? Certo. È molto, molto divertente, io non sapevo questi retroscena dei musicisti sul palco. Ma riesci poi, se per caso, diciamo, sei scordato una cosa, ma riesci a recuperarla poi la cosa? Sì, quella, ormai tanti anni che sono insieme e molto spesso recuperiamo le cose. Anzi, non, dal vivo non sogniamo mai lo stesso pezzo alla stessa maniera. Lo arrangiamo diversamente. Molto bello. È un po' come i jazzisti, giusto? Sì, dipende anche dal locale, dove sta il locale, certo, come fatto il locale, come le luci, dov'è. Però la fantasia e la creatività nel palco ogni volta diverso è una bella cosa, questo qua, secondo il mio punto di vista. Se no poi la gente già è difficile vendere dischi, sì, e fare la gente concerti, se fai sempre lo stesso concerto, sì, certo. La gente hai detto una cosa giusta, è difficile vendere i dischi, ma la situazione è abbastanza pesante in questi ultimi tempi. Con internet sempre peggio. Permette molti, molte vie d'uscita, per noi, però ha tolto l'alone romantico del vinile, dei dischi, del CD. Del il concerto. Vinile più che il CD, però. Sì, un vinile non l'ho mai fatto. No? Ai nostri tempi si comprava il vinile per vedere anche le copertine. Sì, era la cosa più. Magari compravi il disco solamente per la copertina. Sì, sì. E poi invece... tante volte compri il disco che parti, non conosci il disco, ma lo compri perché la copertina è bella. Esatto. È proprio così. Spesso capita, la copertina è bella, il disco neppure lo senti. Io così Springsteen con Nebraska ho fatto così. Ho visto la copertina, il disco era bello, però. Bello. Il disco era un po' ispirato il ponte. Sì, esatto, mi ha molto ispirato il ponte. Molto, nel senso anche positivo. La copertina. Sì, anche la copertina, esattamente. Non è stata colpa mia, che ho cercato. Ci fai ascoltare qualcosa dal vivo? Ok. O vuoi che ascoltiamo qualcosa ancora da disco? No, suono. Suoni. Ho fatto tutti sti chilometri. Ok, allora ci ascoltiamo Valerio che ci fa ascoltare cosa? Alberi secolari. Se non altro e poi alberi secolari piegati dal vento, alberi secolari piegati dal vento, alberi secolari. Bisogna dire la verità, è veramente bello. Poi comunque hai ragione, assomigli vagamente nel suono a quella di Springsteen. Springsteen. come armonica soprattutto. Grazie. Io ho parlato di folk oriented, cioè nel disco, nel ponte. Anche questo era un folk oriented. Sì, molto folk oriented. Molto. Beh, in senso positivo chiaramente. Sì, sì. Questa era su Alberi Secolari, col gruppo suona molto più rock. Decisamente. Dal vivo è molto elettrica. Come mai? Cioè, le suoni te la chitarra elettrica? Dal no, suona Tempesta. È molto elettrica, molto decisamente elettrica, quindi anche organo, batteria, basso e chitarra elettrica. Ben attirata allora. Sì. Alberi, bella, bella, bella testo, alberi secolari. Per quale motivo questi alberi secolari? Perché è legato a una morte. Ah. Un giorno ho perso una persona e fuori dalla finestra c'era quest'albero, questa quercia secolare con un vento fortissimo e veniva piegato, piegato dalla pioggia e dal vento. Quindi un pezzo intimista, praticamente. Sì. Intimista, anche se qua l'ha fatto intimista nel gruppo, con molta energia praticamente. Sì. E che questo è il quarto disco forse dal il quarto, non l'ho contato. Ah, non hai contato. Era il primo solo acustico. E Terra del Padre, Giorni Perfetti, Alberi Secolari il quarto. Okay. Perché è bello che Valerio, forse gli ascoltatori non lo sanno, ma adesso lo spieghiamo. Lui si divide tra la band e l'aspetto solistica. Sì, sì. Solista del discorso. Sempre affiancato sempre da Daniele. Economicamente. Ah, economicamente. Dalla casa di produzione. Diciamo che citiamo la Crisalide. Tra cui Daniele è anche uno dei fondatori. Ricordiamo che la Crisalis era una famosa etichetta dei Jethro Tull, praticamente. Sì, sì, sì, grande gruppo. Grande gruppo di Jethro Tull, che ancora esiste, cioè sì, Ian Anderson esiste, poi lui lo fa, lo dista, fa quello che vuole, ha sempre fatto così. Un grandissimo gruppo. Però è una... anche loro hanno cominciato con rock blues. Sì. Sono tutti i primi album di rock blues. Grandissimi. Quindi il rock blues sì, nel tuo DNA, l'armonia chiaramente, però c'è anche del rock, non solamente del blues. Sì, sì, molto rock. E l'amore, tornando alla... Io devo capire perché l'amore viscerale per Nick Cave, quale Nick Cave? Quello solista inizio di carriera o quello con la band? Murder Ballads. Ah, quello è un capolavoro assoluto. Sì, sì, sì. Io non riesci a fare una cover di Murder Ballads? No, perché la difficoltà di fare le cover è questo. Io le cover in inglese, visto che i romani hanno una pronuncia in inglese che è terribile, sordi insegnano, è così, il romano quando canta in inglese è quello. Oh. Perciò posso interromperti un secondo? Sì. Aveva telefonato una persona che voleva salutarti, purtroppo mi è caduta la linea, quindi lo rinvito a richiamare, chiedo scusa, okay. È caduta la linea. È una sorpresa. Ok. Ero rimasto a chiedere la memoria corta. Scusa, la pronuncia romana. La pronuncia romana. Li traduco, ho tradotto dei pezzi di Dylan anche. Di Nick Cave, se non ho il testo scritto per cantarla, è difficile già come accordi. Come, non ho portato niente, se magari lo sapevo. A me piace moltissimo Murder Ballads. Sì, è un grandissimo disco. Disco meraviglioso, perché lui ha quella capacità di introspezione, di scavare all'interno quella voce particolarissima, sì, sì, sì. Solo lui c'ha la voce, quella voce è là. Terribile. È terribile. E Johnny Cash anche era la stessa. Anche Johnny Cash, hai ragione. Johnny Cash forse sa il padre di tutte queste voci. Sì, sì, sì. Johnny Cash era l'uomo in nero, quindi assolutamente un mito. Gli American Recordings di Rubin sono qualcosa di meraviglioso. Ne ha fatti 4 o 5 prodotti da. Cioè, è stata una rinascita artistica di Johnny Cash. Bellissimi. Un po' One fatta da Johnny Cash. Lo stesso Bono ha detto: è meglio fatta da Johnny Cash, no, come la canto io. Sì, sì. Allora, Valerio, c'è una persona che vuole salutarti. Pronto? Pronto? Radio Blu Radio, sì? Sì, sì, siamo noi. Ci sei? Pronto voi, buonasera. Valerio, non so se mi hai riconosciuto, ma sono Gino l'ascoltautore. Oh, ciao Gino, sì. Come va? Bene, bene. Sì. Ho letto sul Facebook tuo, praticamente, che andavi in onda questa sera. Quale occasione migliore per salutarlo in diretta? Oh, grazie, grazie. Grazie. Ti è piaciuta la canzone prima? Bellissima, ma a parte tutto che tu non so, penso che lo saprai, l'ho ascoltato in anteprima sto ponte. Sì, sì, sì, lo so, te l'ho mandato prima. Grazie. Tutto a posto? Tutto bene, l'importante è che ti volevo fare proprio da sostegno per questo bellissimo lavoro che hai fatto. Grazie, gentilissimo. Purtroppo il mercato oggi è quello che è, giustamente, della musica, no. Però l'importante è tenere duro e fare le cose che si sentono nel cuore. L'importante è far musica e basta, senza mercato ormai. E il mercato sta in piazza per la verdura, dicevano. Però io voglio fare un plauso pure a Blu Radio, come tante radio in Italia, che comunque sostengono la musica, a discapito di altri artisti che fanno da immagine. Loro sostengono chi fa qualità, chi fa musica, questo è importante. Beh, il nostro credo comunque, Gino, questo. Eh sì, appunto, infatti. Non per vantarci, ma volutamente facciamo musica, tra virgolette, alternativa rispetto alle radio commerciali, insomma. Proprio una scelta nostra, proprio per dare spazio soprattutto agli emergenti, ai nuovi cantanti, ai nuovi artisti. È giusto, perché molte volte, anzi spesso e volentieri, ci sono persone, ci sono artisti, ci sono cantanti che sono decisamente migliori di quelli che hanno molto più successo. d'accordissimo al 100% su questo. E ti posso garantire che noi qui, noi speaker, Maurizio potrà confermarmi, quando vengono certi artisti che fanno qualche live così, sono talmente bravi che più di qualche volta ci regalano emozioni grandissime, gigantesche. Ci credo, perché vi seguo come radio, ho sentito l'altra volta Luca Bassanese, quindi lo so che fate, portate artisti di qualità, e speriamo che ce ne fossero altre come voi che portano artisti di qualità. Me lo auguro di cuore, veramente. Ma l'importante comunque è fare le cose, ecco perché diceva Valerio, un sostegno a Valerio, l'importante è fare le cose col cuore e farle. Certo, sempre. Va bene, Gino, grazie, ti ringraziamo. Mi ha emozionato. Grazie a voi, un abbraccione a Valerio e a tutti voi. Anche grazie, Gino. Buon lavoro, ciao. Buone cose. E buon ascolto ancora, grazie. Buone, serene feste innanzitutto, ciao. Grazie, ciao. Anche a te, ciao. Ciao. Bene, è stato bello così. Sì. Te l'aspettavi? No. Sono rimasto emozionato, grazie Gino. Lui ha citato il ponte, ritornando al ponte, che è il tuo lavoro da solista, sì, blues... Però non c'è solo il blues nel ponte, c'è anche qualcosa d'altro, la scopriamo un po' lentamente. Cosa c'è oltre al blues? C'è la ballata folk, c'è la ballata tradizionale, folk. Tipo Nuovo Giorno. Esattamente, che noi abbiamo messo su per un mese consecutivo nelle nostre programmazioni, perché Nuovo Giorno è una ballata folk tradizionale, sì. Decisamente. Sì, il blues si entra, perché il DNA tuo è il blues, però questo non vuol dire che sia No. La vogliamo sentire? La facciamo far sentire dal vivo, assolutamente dal vivo Nuovo Giorno. Maestra in arrivo, sorvola il torrente tortuoso e qui è in arrivo, sopra la ferrovia in arrivo, guardami negli occhi, non sono più un ragazzo mai, faccio fatica a parlarti. Serpenti è in arrivo, c'è muri scritti dagli amanti è in arrivo, sorvola ponti e città è in arrivo, nelle tue mani tra le mie è in arrivo. Bella, molto suggestiva. Grazie. Bella, bellissima. Complimenti, veramente. Anche le immagini molto americane, questa ferrovia, questi ponti, questi serpenti, sì. Queste praterie, proprio United States, America. Questa America, ma è anche un'America, però. Un'America vissuta qua, però. Un'America perché italiana. Il problema è che l'America ha paesaggi molto naturali. Certo. Io uso immagini naturali perché preferisco le immagini di città. I cantatori italiani adesso usano molto immagini di città per dare l'idea della resurrezione, serviva la natura, serviva il sole, il prato, la ferrovia, qualcosa che liberava dal,

pezzo, bravo, applaudiamo, sì. Un pezzo molto forte. Grazie. Con molto pathos. Io lo identifico come più che una ballata folk inglese, secondo me. Sì. Possiamo... Ci siamo dentro anche al Moral Balance, non è tanto distante. Sì, un testo molto duro, se ti rifai a Steinbeck, ma è un testo duro, decisamente duro, anche se chiaramente non totalmente duro, però ha delle parole forti e l'hai interpretato con molto pathos, con molto vigore, rispetto agli altri pezzi che erano molto più ballabili, molto più acustici, molto più accattivanti nel senso positivo del termine. Questo è molto duro. Sì. Ma dal vivo come lo suoni? Così? Lo suono in versione folk. In versione folk, decisamente folk. C'è dal disco, l'avevo scelta pure, però se l'abbiamo suonata non so se la mettiamo. Però come vuoi tu? C'è fatta col gruppo. La tengo in sottofondo. Andrei dal vivo. Ecco, esattamente. La tengo in sottofondo se vuoi. Sì, in sottofondo. Sì. È questa qua. Gli date un vigore, un certo impulso. E qualcuno lo chiama anche combat folk. Sì. Possiamo essere... Sì, molto... Va bene. Cioè, sono i modi della CD Rembers. Esatto, i modi della CD Rembers. Combat folk che sono stati i primi a iniziare questo genere musicale. Poi Cisco si è sviluppato, eccetera. Sì, ma è interessante, molto interessante. Questo, Carney Gang, che era un gruppo bello. E penso che sì, i più bravi tutti hanno i gang. E ancora esistono come beh, i fratelli Signorini erano straordinari. Forse il disco è la storia d'Italia. E sai chi era prodotto? Da Bubola. Bravo, è prodotto proprio da Massimo Bubola. Bubola è il mio... Quello è un combat folk singolare praticamente. Lui ha portato avanti da tempo questo discorso. È grandioso Bubola. E lui è venuto più di una volta qua e ha prodotto Storia d'Italia dei fratelli Signorini della gang. Bellissimo il disco. Un disco meraviglioso secondo me. Forse il più bello della gang a mio parere, anche se all'inizio erano piuttosto molto duri loro. Sì. Poi hanno leggermente cambiato, adesso fanno un nuovo... Esattamente, dovevo uscire, è già uscito. È uscito da pochissimo tempo. Grandi fratelli Severini, grandi. C'è poco da dire. Anche brave persone, l'ho viste, l'ho incrociato una volta, sono due persone... Io li ho intervistati solamente, non li ho materialmente, io solo per sentiti per telefono. No, io l'ho incrociato come spettatore, ho parlato un attimo, non... Ero più piccolo, però. Ero più piccolo. Ma sei giovane ancora, te non so come. Rispetto a me, Agostino, specialmente a me, no? Ecco, io sono giovane. Tu sei giovane. Agostino è ragazzino. Grazie. Di una volta, forse. Di una volta. Una volta. Beh, una cosa volevo chiederti: il live, che importanza ha il live per Valerio? Non soltanto per la band, anche come solista. Il live è tutto. Live è tutto. Nel testimone di stasera, che abbiamo. Completamente cambiato tutta la scaletta, colpa mia. Assolutamente. Il live è l'espressione che un musicista. L'espressione del musicista è il live, non è il disco. Il disco è. Ti fanno fare 30 volte l'incisione della voce. Certo. Invece mentre, anche se il punto è registrato in presa diretta. Esatto, è quello importante. Però il live è tutto, perché dà espressione all'emozione del momento, anche la scaletta cambia. Però è anche rischioso il live, eh? No, perché? No, nel senso che se sbagli qualcosa... Ma no, non è importante, non è importante, non sta a fare musica, sta a fare rock, insomma... Sì, no, ma se stai presentando la tua immagine, magari se la sbagli, magari anche più di qualche volta, perché l'emozione ti porta a questo, vabbè, sei un essere umano, ovviamente, in quel momento, però magari uno, se si aspetta un professionista di ben altro livello, spessore... Se uno sa suonare, lo sbaglio rientra. Perché sai che l'emozione l'emozione dà sempre brutti scherzi. Sì, a me mi tremano le gambe. Ecco. Però sto fermo. Oppure quando sono troppo. Comincio seduto. Ma è giusto. Se lo sbaglio c'è, deve rimanere lo sbaglio. Deve rimanere. Assolutamente deve rimanere. Sono bellissimi dischi che rimane lo sbaglio. Esatto. Certe cose. Sì. Beh, Dila insegna. Dila insegna. Dila volutamente così. Perché lui sbaglia volutamente. Anzi, adesso lui sbaglia apposta. Comincia a sbagliare. Però è grandioso. È grandioso. Ok. Non so che scaletta, cosa abbiamo da sentire dal disco, qualcosa? E come volete voi, decidete voi. C'è dal disco un pezzo che è totalmente di fuori dalla musica che faccio, però lo sentiamo proprio perché non c'entra niente con di solito la musica. Come si intitola il pezzo? Via con me, perfetto, lo sentiamo e poi ne parliamo ancora, ok? Che muori per venire via con me. La notte è fatta per gli amanti, ma siamo noi così distanti. Vieni via con me. Tua porta è chiusa, a chi sei andata in sposa, vieni via con me. Oh, la terra che mi copre, ho tre canzoni nuove, vieni via con me. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Eccoci qua, è un brano proprio atipico questo qua, sì. Atipico nella produzione tua o della band. Un finale quasi jazzistico, non so come definirlo. Sì, è venuto fuori così, è venuto fuori all'improvviso. Come mai? Avevo questo giro d'accordi, non riusciamo a dargli nessun arrangiamento, però a me piaceva la canzone, perché le canzoni d'amore che abbiamo sono poche, infatti dopo ne sono una, perché d'amore proprio espressamente d'amore, quello che si canta di solito, e allora volevo suonarla per forza, volevo mettere dentro sta canzone, e abbiamo trovato l'unico arrangiamento che andava bene era quello, e poi era divertente suonarla e la suonavamo in continuazione. Sì, una piccola jam session praticamente, sì. E dal vivo la fate chiaramente e... sì, quando me va. Ah, quando te va. quando sono allegro la faccio, quando, quando il concerto deve essere cupo allora non la fai. No. Infatti loro mi dicono, se vestimo di nero oggi dobbiamo... No, oggi colorati, allora sono... Incredibile. Ok, sono 21.45. 45 proprio in questo momento. Si sente comunque che è di Roma, eh. Di Roma. No. Sono molto colorati loro, sono molto... Veramente, se siete come persone in sé, proprio nella gran massa, diciamo, di romani, siete molto allegri, molto... Sono rimasti pochi i romani. Sì. Vedi. Delle mosche bianche, praticamente. Sì. Benissimo, adesso facciamo la solita domandina. Io sono stato buono. Dimmi. Parla vicino. Ah, devo parlare. Sì. Ho pronunciato a Valerio la domandina. Di solito io non pronuncio mai gli artisti la domandina. E sei stato fortunato stasera. Allora, i 5 dischi da portare su un'isola deserta, Valerio. A tuo piacimento. Allora, la buona novella di Fabrizio De André. Ecco, fermiamoci un secondo. Io amo particolarmente questo disco, è meraviglioso. Come mai hai scelto la buona novella? Perché è meraviglioso. Perché è meraviglioso, accendo per no, sì. Perché i te. Penso che anche essendo un laico credente, io non riesco mai, nei momenti del bisogno sono credente e poi come tutti quanti, e poi mi professo laico, non so. Però è il disco che meglio rappresenta la veridicità dei Vangeli, anche degli antichi Vangeli, di Marco, sapete che poi c'è stata la storia che ci stavano i Vangeli, poi certo, certo. Il primo è il disco Vangelo degli Ebrei bellissimo. Di Dioniti, prima di come mai. Fantastico. Lui rappresenta l'umanità, è bellissimo. E poi ha avuto una reprise proprio recentemente, visto che la PFM un'altra volta l'hanno riproposta. Disco... Anche se lo preferisco dal sul disco che dal vivo, perché per me sul disco ha quei colori tipo il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, certo, in bianco e nero, è molto più godibile. Dal vivo è bellissimo, però è molto più colorato e perde l'impatto... Che aveva visivo, se un disco può mai avere un impatto visivo, per me ce l'hanno sempre avuto. Numero 2 Nebraska di Springsteen. Un momento, fermiamoci un secondo. Tu hai detto che ti piaceva molto la copertina. È bellissima. Disco strada. Chitarra, perché all'epoca fare un disco di chitarra e voce, lui che aveva fatto un disco numeroso i precedenti con la band, è una grande iniziativa, un coraggio. Era Springsteen, testi, però. È bellissimo, i testi. Epocale, quello è un disco epocale. Registrato a casa poi con le cassette. Sì, con le cassette. Perché se pensiamo all'attrezzatura dell'epoca, era come registrare un disco adesso col mangianastri, era qualcosa di meraviglioso, dai testi, dal tutto. Sì, all'epoca, adesso c'è la tecnologia, c'è tutto, ma una volta il computer, c'era multitraccia. C'era l'anima del musicista. Registrato dentro una villa desolata in mezzo a qualcosa di meraviglioso. Doveva essere Nebraska. Cosa ne pensi del disco nuovo, quella di stampa di Darkness on the Edge of Town? L'ho comprato oggi. L'hai comprato subito? Me l'ha regalato mia moglie. Ha fatto un ottimo ordine di regalo per Natale. Hai fatto un ottimo regalo. L'hai sentito? Sì, l'ho già sentito. Così come? Bello. Ma Springsteen, come si può dire che è brutto un disco di Springsteen? No, non si può dire. Però c'è gente che in Italia, perché è americano, allora a molti dà fastidio questa cosa degli americani. Allora Ma non ha stato Springsteen, al di fuori di tutti gli stati. C'è gente che non lo capisce questo. Ecco, esatto. Possiamo fare. Dimmi. È meraviglioso. Dal vivo poi è qualcosa. Io non l'ho mai visto dal vivo. Hai visto Springsteen? No. Un mio amico l'ho visto ben 5 volte e all'epoca ancora quando suonava 3 ore consecutive, sai che dopo a Milano c'è stata l'intervista, prima mezzanotte non si può più suonare, eccetera. 3 ore consecutive con Clarence Clemons enorme che avanzava col sax. Ok, andiamo avanti, numero 3. Allora, Desire di Dylan. Ecco, grande disco Agostino Desire. Hurricane. Incredibile. Bellissimo disco anche quello. Quello per i colori, il Messico, la parte del sud degli Stati Uniti, la contaminazione di New Orleans, è bellissimo quel disco. Poi c'è un pezzo romantico bellissimo, One from the Cup of Tea, una cosa simile. Quella tazza di tè. One More Cup. Esatto, quella era bellissima. Bellissimo. È un pezzo miracoloso dal punto di vista musicale. È un disco di sofferenza però. Sì. È un disco del distacco dalla moglie. È bellissimo. È bellissimo. È un grandissimo disco quello. Poi numero 4. Allora, numero 4, American Recordings, il primo di Johnny Cash. Ah, grande. Quello, l'uomo in nero. Voce dobbiamo alzarsi in piedi. L'uomo sì, in nero, è meraviglioso. Quello è un disco. È il quinto, credo, sono le mani di De André. Due dischi di De André. Sì. Donna Bella e Crazy the Mac, era il primo esperimento di world music praticamente. Sì, sì. David Byrne ha detto un disco meraviglioso. È meraviglioso. Sì, l'ha detto David Byrne dei Talking Heads. Perché penso che la musica folk italiana, anche se abbia molte risorse e molte cose bellissime da scoprire. Ma hanno fatto dei dischi Bubola e De Gregori. Bubola quel lungo treno, penso. Sì. E De Gregori ha fatto il fischio del vapore. Sì, una cosa sì con la Marini. Esatto. Però viene, a differenza degli artisti stranieri che molto attingono dal panorama folk, gli italiani non l'hanno mai fatto. Mai ricerca, sì. Sempre con ste, lo sono sempre. Ma c'erano, non so se ti ricordi, gli Actuala. E gli Actuali era un gruppo che pescava, faceva world music all'epoca, cioè ricerca musicale di temi italiani, di veduti e corretti, molto jazzati, molto difficili, molto complessi, però gli Actuali avevano quel... Cioè, Peter Gabriel ha inventato la world music, sì. Però gli Actuali in Italia, un po' prima di Peter Gabriel, avevano fatto degli esperimenti su questo. Vabbè, questi sono i 5 dischi poi praticamente. Sì. Credo, ma è interessante, tu hai tinto al dialetto. Avrei di qualsiasi altro disco rock, ce ne stanno tantissimi, però quello è anche per la copertina. Bellissima. È un disco da estivo, è un disco, è un disco difficile, cioè lui ha pescato il dialetto ligure, il dialetto genovese, e ha fatto un disco, come detto, come abbiamo citato prima, David Byrne ha detto che è un disco meraviglioso, un disco epocale per lui. L'ha detto David Byrne, quindi ragazzi, David Byrne era lì dei Talking Heads. di un gruppo che ha fatto la scuola della musica americana, il famoso 77, che ha dato un risvolto importantissimo al sound americano, è David Byrne, è David Byrne. Ok, e tu sei Valerio Bileri, cosa ci fai sentire? E una canzone d'amore? Una canzone d'amore. Ok, che sono intitola? Le 22, 21. Vado in sposa. Ok. Mise addosso il vestito più bello, l'abito da sposa, e infilò nel dito un anello e nel petto una rosa. Scese giù strada col vento forte e il padre che aspettava. Padre, non essere triste se vado via da casa. E va di sposa il mio uomo straniero, che tu lo voglia o no. E va di sposa il mio ricco uomo che a tarda notte amerò. Oddio che illumini il cielo, oddio che oscuri la scena. Dammi un amore dei figli ed una vita serena. Dammi un amore dei figli dove poter sognare, ed un milione di nascondigli dove poter cantare. E va di sposa il mio uomo straniero, che tu lo voglia o no. E va di sposa il mio ricco uomo che a tarda notte amerò. Forte, dimmi che resterai con me finché non giunga la morte. E va di sposa il mio uomo straniero, che tu lo voglia o no. E va di sposa il mio ricco uomo che a tarda notte amerò. Valerio, una canzone da folk studio, bellissima. Grazie. Io la trovo proprio da folk studio. Ho cambiato anche le parole sulla seconda strofa perché non le ricordavo, le ho scritte al momento. Bello, bello così. Proprio ho avuto un attimo di terrore, ma mi sono ripreso, non so che ho detto. Adesso che si è detto che era bello. Sì, sì. Non è, l'equilibrio è stato perfetto, non c'è nessuno squilibrio, però ve l'ho detto, non è stato, cioè, no, perché chi mi sente che la conosce magari però sarai ascoltato prossimamente, perché verrà messo in podcast la trasmissione, e quindi è vicino alternativa, sì. No, resta questa, resta quella che hai appena fatto, cioè. È molto bella, molto intimista, sì, ripeto, potevi benissimo suonare al folk studio. Sì. Si parla di 30 anni fa. Una volta c'era, fino a 15 anni fa. E quanto era importante il folk studio, sì, per tanti cantautori. A Torino ne hanno, non so come sia, ce n'è un altro. Sì, mi pare di sì, ne hanno fondato un altro. Il folk studio è stato una fucina di talenti. Sì. Abbiamo citato a microfoni spenti De Gregori, a microfoni aperti De Gregori e Venditti, Locascio soprattutto. De Angelis. E Stefano Rosso. Stefano Rosso, certamente. Tante cose molto belle, molto interessanti. E tutto dipende dal Dylan. Sì, parte tutto da Dylan. Dal maestro. Dal maestro, parte sempre dal maestro. Qualcuno ha detto, prima c'era Elvis, poi c'era Dylan e i Beatles e i Rolling. Elvis, sono d'accordo, che senza, sì, di Elvis non, sì, ci sarebbe stato nulla. Però poi Dylan è venuto subito dopo. Dylan, non ricordo quale scrittore, ha detto che se devo dare il volto a Dio, immagino il volto di Dylan. Ecco, non perfetto. So per quale motivo. Però Sì, è una frase forte, però di là ha dato molto, moltissimo. Io ricordo di aver letto un libro di Anthony Scaduto, è quello famoso, la biografia di Dylan, che i suoi detrattori, per poter cercare di capire qualcosa di lui, andavano a rovistare nelle immondizie. Se abitava a Napoli erano rovinati. Rovistavano nelle immondizie per cercare di capire cosa faceva. Roba incredibile. E sono cose vere queste qua, non sono leggende metropolitane, è la realtà delle cose. Lui ha fatto delle cose meravigliose. Benissimo, adesso sono le 21.56, ti facciamo riposare un secondo e sentiamo un pezzo che abbiamo scelto della scaletta, cosa dici? Ok, dal ponte. Dal ponte, che pezzo hai scelto dal ponte? Che pezzo ho scelto dal ponte? Estate calda. Estate calda. Un'altra ballata. Un'altra ballata, ok. Sono un dono al vento, alte le fiamme si alzano su ogni campo, la cenere brucia gli occhi e secca il cuore, la lunga estate calda tarderà a finire. Se per ogni pensiero avessi avuto tempo, se tu avessi ascoltato un solo momento, il battito discontinuo del mio cuore, la lunga estate calda tarderà a finire. Le scarpe da sogno per venirti a cercare, laddove la casa è deserta tra le immagini sacre, ma un ramarro ha morso il mio dito avvelenandomi il cuore, la lunga estate calda tarderà a finire. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Spot. A Natale regala solidarietà. Sostieni Ava Pomestre, l'associazione di volontariato per l'assistenza ai malati di tumore. Per maggiori informazioni su chi siamo e come poterci aiutare, www.avapomestre.it. Con il tuo dono puoi contribuire ad illuminare i momenti più bui. Telechiara. Da 20 anni la voce del Nord-Est la trovi sul tasto 14 del telecomando. Per informazioni telefonare allo 049 84 81 900 o visita il sito www.telechiara.it. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ancora 30 minuti di voce splendida, quale quella di Valerio Billeri con il suo Alberi Secolari, che ci sta presentando questa sera qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara fino alle 22.30. Da questo pezzo che abbiamo sentito adesso ti dai qualche spiegazione nei rumori, negli effetti, sono molto interessanti. Questo abbiamo tratto dal ponte, la notturna da solista. Allora, al centro del pezzo faccio la spiegazione tecnica. Certamente. Al centro del pezzo c'è una cinepresa Il timone della cinepresa è il Super 8 vecchio, perché è un pezzo che ricorda, l'ho scritto ricordando quando ero bambino. Chi vive a Roma tanto tempo fa, 30 anni fa, si camminava a piedi tranquillamente. E a Roma è molto presente il Caravaggio, è molto presente il cinema e il Caravaggio. Caravaggio che viene richiamato nell'ultima strofa del testo. Pittore maledetto, praticamente. Sì, perché io, mio nonno mi accompagnava per tutte quante le chiese, i quadri. Io ho sempre questa immagine del morso del ramarro. Sì. E mio nonno diceva che il diavolo morsicava e faceva entrare il male dentro di te in quella maniera, mordendo. Infatti, alla fine della canzone c'è il rumore di Saturno, che per gli antichi romani era l'emanazione del male, esattamente. E anche all'inizio del disco c'è il rumore del pianeta Saturno. Quindi che dà questo influsso maligno. È un'immagine, una chiave, sì, di volta. Il disco, il ponte, è dato come un attraversare da questo mondo a quell'altro. L'immagine del ponte può significare moltissime cose. Giungere a una meta tanto agognata, oppure è difficile spiegare, perché parlando di emozioni in questo momento sono un po'. E perciò questo era il senso, i rumori del pianeta maligno. Saturno, praticamente. E questo disco per me è come cacciare via tutto il male che era dentro di me. Anche i testi sono molto duri, molto cupi. Lasciarli andare via, farci volare il male con questo disco e metterlo da parte. Quindi un modern ballad all'aereo, sì, Pileide, praticamente. Sì. Possiamo definire un concept album, sì, il ponte. Sì. Cioè, che ha questa prerogativa. Infatti l'immagine di copertina è, sì, è un'immagine scura, non si, sì, vede il volto, il cielo è plumbeo, nero, con la luce che viene da dietro, proprio per quel motivo. L'hai scelto te quell'immagine? Sì, sì. E la copertina l'hai fatta da te, l'imprinting l'ho dato, sì, io, sì, l'ho dato io. L'idea è partita da te. Cioè. Poi è finita tipo Nebraska, però non è... sì. Penso perché così pensano da vendere più. Si ricorda che Nebraska è un'autoproduzione totale, la tua. Sì, però c'è della Crisalide, però l'ho registrato tutto quanto io. Come si fa? Cioè, è stato tutto, quindi presa diretta a partire, o quasi? Sì, tutto in presa diretta. Sono andato in studio, ho attaccato i microfoni. Quindi avevi già tutto in testa? Sì, l'ho registrato in una giornata. Ah, bravissimo, sei stato velocissimo. No, bravissimo non lo so. Beh, sei stato veloce. Sono stato veloce, infatti se sono stato bravo. Il disco è bello, a mio parere è bello, è interessante, ma è stato tutto da te. Cioè, senza interruzioni, vuol dire, sì, che sì. Avevi già l'idea, ero già danni tutto... cioè questo disco è stato fatto durante le pause della band, praticamente. No, è stato fatto, è una gestazione difficile, è stato fatto la sera tardi, senza, no, le pause, quando non avevo niente da dire, niente da fare, scrivo sti pezzi E poi hai messo in fuori, poi hai sentito da parte, e poi vedevo film in bianco e nero. Sentivo musica dei dischi blues degli anni 30. A proposito di musica degli anni 30, mi avevi detto all'inizio della trasmissione che facevi una cover di grande blues. Che sta anche sul disco, nessuno anche sul disco. Dove hai dormito stanotte. Esattamente. Adesso la facciamo un momento? Ok. Ok. Stanotte tra i pini, tre pini, dove il sole non batte e il vento freddo soffia forte. Ragazza, ragazza, non dirmi bugie, dove hai dormito stanotte? Tra i pini, dove il sole non batte e il vento freddo soffia forte. Suo marito era un bravo uomo e lavorava ad un miglio lontano da qua. La sua testa fu trovata dentro ad una ruota, ma il corpo chi lo sa? Ragazza, ragazza, non dirmi bugie, dove hai dormito stanotte? Tra i pini, tra i pini, dove il sole non batte, il vento freddo soffia forte. Ok, abbiamo sentito una cover di un grande bluesman degli anni 30. Hai fatto bello, bello. Si sente che ami particolarmente il genere. L'hai preso come fosse tuo praticamente. Sì, e sì. L'hai estrapolato in questa maniera. Tu mi hai detto prima, al microfono spenti, non sei molto con, cioè le premiazioni non ci dicono molto, però bisogna, io ho letto nella biografia che nel 2003 hai ricevuto l'attacca De André come artista emergente, bisogna dire certe cose. Sì, secondo artista emergente. Secondo artista emergente, com'è stata? Il primo non era tanto emerso, adesso non dico nome, c'era 50 anni. Era emerso dopo. Era emerso dopo. Però, aspetta che cambio chitarra. Ha cambiato chitarra, prima ha usato la chitarra smithiana, adesso è sì, un po' meno smithiana, questa è un po' più leggera. E, però, parliamo di quella 7 anni fa dove hai preso questo premio. Sì, me l'hanno dato. Me l'hanno dato così. Sì, i premi per me non sono importanti. Sul curriculum vale quando certo. Presenti queste cose, devo dire la verità, che fanno un po' più effetto, ti trattano in maniera differente. Però alla fine l'importante è l'opera d'arte. Ci sono moltissimi artisti che non hanno preso nessun premio. Paul Newman fino a 80 anni non ha preso l'Oscar. Insomma. È vero, verissimo. Cosa hai presentato all'epoca in quel festival? Il disco era Terra del Padre. Terra del Padre. Era il secondo disco. Era Caronte il pezzo che fece. Caronte. Caronte mi ispira, mi ricorda i Trip. Sì. Il progressive sì, anche. Romano, a proposito tu sei di Roma, lo sai che recentemente sono ritornati i gruppi progressive, hanno fatto un festival famoso. Proprio scorso, a fine novembre, inizio di dicembre. Sono ritornati gli Osanna, il Banco, eccetera. Ritorno al progressive. Sì, il pezzo in questione non era molto progressive, anche perché è molto difficile suonare il progressive, devo dire la verità. La preparazione musicale è strana, complessa insomma. È molto complessa. Di molta memoria, io la memoria non ce l'ho. No, c'hai i fogli davanti. C'ho un libro qui. Ognuno usa i mezzi che ha. Anzi, tanto non ci sono le telecamere questa sera. Però l'ho detto. E quindi rimarrà sempre nel podcast. Un'altra volta vieni con l'Egio davanti. No, niente, l'Egio non va bene. È pesante. sì, in treno, ragazzi, lei è venuta da Roma in treno. Quindi, come una volta prendevano la ferrovia. Cioè, sì, andavano sempre a suonare. Immagini americane, esattamente. La ferrovia. Okay. Valerio, dacci qualche informazione inerente al tuo sito, dove si può trovare il disco, quelle allora, cose. Ok, questo è vero. Marketing, allora, sì, ci vuole. Allora, il sito dell'etichetta è crisalidemusic.com. Il www lo levo, www. Io uso il MySpace con Valerio Billeri. E poi c'è che altro? Il disco è disponibile su tutte le piattaforme internet. Potete comprarlo digitali. Sia come oggetto che come adesso se scaricano le singole canzoni. Infatti, ho visto che qualcuno scarica le canzoni singolarmente, non riesco. Beh, al limite si fa una compilation. La compilation mia, insomma, per dormire. Per perché no? Se hai dei fans, è giusto che si scaricano le canzoni che amano di più. Parlo scaricate legalmente, sempre pagando. Legalmente. 0,99 centesimi, giusto? Sì, penso no, 0,67. C'è lo sconto. E quindi e fisicamente si può avere? Sì, sempre dalle piattaforme si compra l'oggetto che arriva a casa bello impacchettato. Anche perché la distribuzione adesso i negozi ci fanno la Feltrinelli, queste cose così, è difficile entrare nel giro. In qualche negozio nuovo puoi comprare direttamente l'oggetto, idee musicali, questi qua. Dark Star mi sembra anche. Però. Da noi un po' alla volta stanno chiudendo tutti i grandi negozi. Anche da noi. anche, è un peccato. Proprio sì. Recente di questi giorni che sta, chiuderà un grandissimo negozio qui a Padova. Proprio in centro a Padova. Proprio in centro, proprio nel pieno centro. Un grosso peccato. Perché una volta, noi che siamo di una certa età, me ed Agostino, tu sei più giovane di noi, quando si entrava in un negozio di dischi c'era la... Tanto c'era uno che era molto competente, sì. Quello che ci guidava. E poi aveva un fascino particolare. Sì, sì. C'è poco da fare. Adesso che fascino? Lo spacciatore dei dischi. Che fascino ha? No, adesso no. Non esiste più niente. È freddo, stanno queste cose di plastica. Queste cose di plastica, appunto. Tutti mischiati. Non so. Tutti buttati là così. Se e poi non compri niente, perché poi stanno anche i sconti adesso, perché per 20 CD vendono a 4,90, 5 euro. Beh, sono, vai... quelli, sono quelli vecchi, però. Ho capito, ma chi non ha mai ascoltato i Led Zeppelin, no? Vabbè, sì, sì. Fa comprare un disco a 5. Beh, comunque sia, è comunque un viatico per acquistare. Sì, però io alla fine non compro niente perché non so che prendere. Mi carico il braccio dei dischi e poi li lascio tutti. Perché sì. Questo sì, quello no. Quello... Beh, c'è qualche lettore. Non so cosa scegliere praticamente. C'è qualche lettore ottico comunque che ti permette di ascoltare qualcosa, no? Passi sotto, sopra, sotto... No, come fai, non so, boh, io le cose elettroniche per guardallora. Il DVD a casa serve per che ore la mattina. Beh. A parte che ero un po' appena di tocco, infatti dovete essere preoccupati perché qui ancora non si è rotto niente. Le cose elettroniche c'ho... No, adesso sta funzionando tutto okay. Finora, quindi c'è poco da fare. Lavatrici, qualsiasi cosa. Se stacchi la giusta io le rompo, se per esempio rompe qualcosa a casa arrivo io. Beh, sono 22 e 13. Facciamo ascoltare un altro pezzo e poi ci salutiamo con l'ultimo. Tornando da te, visto che è l'ultima canzone. Sì, ma facciamo l'ultima. No, poi ne fai un'altra. No, okay, no, l'ultima nel senso che poi ci salutiamo e poi chiudi. Ok, quindi... allora ne facciamo. Sì. Beh, tanto suoniamo questa adesso. Sì, poi ne facciamo. Ora sono pronto. Senti che caldo. Brillano le mie fibbie, sembrano fatte d'argento. Strane ombre mi avvolgono come ombre di luce. Sto tornando da te. Mi lascio accecare da immagini nuove. Ogni cosa mi è chiara, anche i tuoi occhi. La differenza è sottile tra la realtà e lo specchio. Sto tornando da te. Sto tornando da te. Sto tornando da te. Sto tornando da te. C'è un muro di sassi. Guardo oltre, che splendida terra. Ok, benissimo. Molto asciutto. Sì. Molto scheletrico stavolta. Sì, eh? Sì, sì. Cosa dici? Sì, per dare risalto al testo di ritorno. Importante. Testo religioso, d'amore, non lo so. Dipende da chi l'ascolta, certo. La lettura è libera. Però musicalmente era proprio asciutto, sì. Scheletrico, cioè senza tanti giri, tanti virgolettate. Sì, sì, sì. Adesso ritorniamo un momento alla band. Tu hai un disco nuovo con la band. Sì, dobbiamo... stiamo... registrando Vintage Radio, già il titolo. Come mai Vintage Radio? Perché sarà un disco rock and roll. Ah, bello! È un disco. Tutto pieno di potenza, però. Sì, sì. Non solo, punk. Solo rock, no, rock and roll proprio classico. Rock and roll classico. Tom Petty, Bruce Springsteen. Come mai questa calata del rock and roll? Perché classico? Nessuno suona più persona, diciamo chiaramente. La maggior parte, è ovvio che moltissima gente suona personale, ma. C'è poco spazio per chi suona per suonare ormai. Allora questo è un disco di combat rock, facciamo così, un disco di ribellione. Di ribellione. A proposito di suonare, suonare, tu mi hai detto prima di iniziare la trasmissione che non hai avuto tante difficoltà a suonare con le band. La band trova qualche spazio a Roma per suonare? Sì, sì, sì, a Roma forse perché tanti anni che suoniamo, perciò gli spazi cioè, avete trovato un... di prepotenza, ci prendiamo da soli, conosciamo i padroni dei locali, andiamo là e suoniamo, no. Però sì, c'è il fenomeno delle cover band, però ognuno deve avere la sua espressione. Io penso che il problema dei locali adesso è sia che non viene molto calcolato il lavoro che fanno i musicisti, il pagamento, queste cose, quello sarebbe un discorso troppo lungo. In Italia è l'unico paese, penso, europeo che non c'ha un sindacato dei musicisti. Non esiste, perché i musicisti non si mettono d'accordo fra di loro perché hanno paura che non li fanno suonare. Paese strano, insomma. Tu hai detto una cosa giusta, in Italia il musicista non è recepito come un lavoro, invece non c'è un sindacato, c'è il sindacato dei calciatori che fanno sciopero, tentano di fare sciopero, tentano. Una cosa ridicola, non c'è il sindacato dei musicisti. Esattamente, strano, molto strano, perché c'è la CIA, ma medagliano tutto. I piccoli diritti che dovevano arrivare. Me ne avevano pure i biglietti del treno domani. Sì, quindi è giusto, vedere all'estero tutta un'altra cosa. Il musicista è rappresentato come un lavoratore, come un professionista. Serio. In Italia sai che fanno, ma che lavoro fai? Però? È musicista, cosa vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? Ma tutti, sai, tutti gli artisti che passano in questi studi dicono, io lo ripeto, le mie parole sono sempre quelle, ma anche le vostre sono sempre quelle. Cioè, tu dici cosa, che lavoro fai, e tu rispondi... musicista, e tutti che lavoro è? Sì. E tutti rispondono, tutti gli artisti che passano qui. Vabbè. È una cosa proprio, stanno tante cose in Italia. Questa è una delle minime. Però è un lavoro faticoso fare il musicista, perché suonare, prepararsi, arrangiare. Sì, c'è di peggio. Se c'è di peggio, sono d'accordo. Certo, c'è di peggio, ma se vediamo in quell'ottica. Sì, è divertente, no? È divertente. Io ricordo un concerto dei Pooh, io amo i Pooh, c'è stato Stefano D'Orazio che a un certo punto ha detto, oh ragazzi, in dialetto ovvio, cioè in termini romano, fare il musicista comunque è sempre meglio della ora. Sì, lui l'ha detto in chiave romana, io non sono da quelle parti, però ha detto proprio così, che lui fa il musicista. È chiaro, però la maggior parte dei musicisti ormai, se non sei famoso, devi anche trovarti il lavoro, però il lavoro è il musicista. Beh, del turnista allora. Al limite del turnista. Sì, sì. Però, che suona un po' dappertutto. Non è come suona a cose tue, poi alla fine. Penso che anche il turnista ha cose sue che vorrebbe suonare in ogni momento, ma non gli è raro. Qualsiasi. È come un pittore che fanno fa sempre la stessa cosa, i ritratti, lui magari ha idee. È una tremenda. Io so, d'altronde, come si dice, prima si deve maniare e dopo. Se vuoi maniare. dopo si fa il resto. Sì, sì. Una ultima cosa voglio chiederti. A proposito del disco con la band, è stato giudicato dalla critica il vostro miglior disco. Sì. Come mai secondo te il più completo, più con le idee gestite in maniera... Vuoi la versione ufficiale o la versione per amici? La versione tua, quella è sincera, come hai detto prima. La versione ufficiale perché il disco è ben suonato, ha buoni musicisti ed è molto aperto come suoni. Non parte da uno spunto folk rock, però si apre anche ad altri contenuti. La versione ufficiale è questa. No, questa è quella per gli amici. Quella ufficiale è questa. Quella per gli amici è perché si sono addormiti con questo, con l'altro dopo la seconda canzone dormiva. Però hai avuto un buon riscontro, dai, su questo. Sì, sì, sì. Abbastanza buone recensioni, c'è stato un movimento positivo. Sì, su quello. Quello importante. Anche l'etichetta sarà stata contenta. Sì. Se no non mi facevano fare quello da solista. Bene, 22 e 20, siamo quasi alla conclusione. Noi ti ringraziamo innanzitutto per lo sforzo da Roma con il treno fino a qua, fino a Padova, tipo i pionieri. Che dovevi ringraziare mia moglie che è venuta con me. Ecco, sì, ringraziamo tua moglie che si è seduta un po' là a fianco e ti ha sentito, ti ha ascoltato praticamente. Che pazienza, mi sente a casa, mi sente qua. Però è stato positivo, è stato un bel viaggio nella tua musica. Abbiamo parlato della band, abbiamo parlato del tuo disco solista. Hai qualche idea di venire da queste parti a suonare? Avevo contatti, ma avevo un locale, adesso non dico il nome. Dovrei venire a suonare a marzo. Ah, qua? Bene. Qua. Però loro mi hanno detto scegli una data, io non so proprio dire il giorno, adesso mi devo mettere d'accordo sulla data. Perché volevo suonare l'8 marzo. Che è donne. Però ho visto che c'è la partita della Roma in Coppa dei Campioni. Non si può. Anzi, giusto, il ritorno. Non si può spostare. Perché vai allo stadio a vedere la partita. No, lo stadio non ce l'ho da anni. Però la televisione si la vedi. Roma si vede sempre. Bene. Comunque, se vieni da queste parti a fare qualche live, ce lo dici. Sì. Noi ti veniamo a sentire. Settimana ho la data, perciò. Ah, okay. Ma poi hai altre date in giro, sì, per l'Italia? Vado a Livorno e adesso comincio a Roma, poi mi sposto vicino Roma, poi vado. Dico i locali? Certo. No, i locali le date. Allora, le date. Sì, le date in medico. I locali. Vabbè, dove trovano queste informazioni? Allora, sul MySpace. Comunque, i prossimi sono il Fulic Roma e China Art Caffè vicino Roma, penso che sia Albano Frascati, la Bodeghita di Livorno e poi uno di Viterbo che c'ha a che fa con Belusci, ma adesso non mi ricordo il nome. Sì, beh, un locale di Viterbo. A me invece portano i locali. Ah. E quello di Padova invece? Padova, lo dico. Sì. Fahrenheit 451. Bravo. Però non so adesso i contatti. Beh, c'è questa idea di venire a suonare a Padova da solo o con la band? Da solo. Ma c'è sempre il tuo batterista, cioè il battista, il coautore dei tuoi pezzi, c'è anche lui oppure no? Quando vengo da solo? No, quando vengo da solo. Con la band sì, c'è sempre. Ma sono suonate voi due qualche volta? No. No, da solo con lui no, litighiamo sempre. Ho capito. Litigate, sì, ma perché lui è laziale, tu sei romanista. Sì, per quel motivo là. Non musicalmente, non litigate. No, anche musicalmente, lui ha molta pazienza con me. Ho capito. Ma quello spunto che avevamo parlato, cioè, all'inizio di trasmissione del 2000, vi siete trovati, è stato casualmente che vi siete incontrati? Non l'hai detto un'ora fa. Allora, in uno studio di registrazione, lui stava registrando un disco con un'altra etichetta con cui lavoravo, io mi ero fatto male alle mani. Ah. Lui stava suonando la batteria, sono andato lì, la prima volta che l'ho visto, dice, guarda che mi sono fatta le mani. Ma io che ce lo fa che mai? Dicevo, io suono la chitarra e lì ho cominciato a suonare. Da quel momento ci fammi sentire che si fa e abbiamo suonato. Perché lui è un batterista fondamentalmente, ma un po' l'istrumentista o solo un batterista? No, fa tastierista, batterista. Fa un po' di tutto praticamente. Sì. Però batterista come inizio, come il suo strumento principale. Sì, sì. E fa un sacco di stop and go. Sì. Nel disco. Beh, pure dal vivo. Ah, pure dal vivo. E vi metti in difficoltà? No, ormai lo conoscevo. Fama chi fa prima, fermarsi. Ricordiamo invece i vari musicisti allora che hanno suonato in questo disco. Insomma. Allora, Alessandro Cefalì, al basso. Fabri, al basso Regina Fabri Cori, Paolo Rozzi alla fisarmonica, cioè su Alberi Secolari, e Daniele Giovannoni alla batteria, Fabio Tempesta alla chitarra. E poi Gianni Ferretti è entrato adesso con un nuovo lavoro. E gli ospiti? Te li ricordi? No. Troppo difficile. Anche perché non c'ero quando ho registrato i fiati. Poi ho visto che la Virginia. Io non ero d'accordo con i fiati. Ah, non eri d'accordo. Però c'è. Vabbè, tu hai utilizzato anche il flauto attraverso il violoncello. Bello, sì. Bello, meraviglioso. Sì, sì, sì. Come mai l'utilizzo di questi due strumenti veramente interessanti? È con un suono un po' dark. Per dare un impatto diverso dai dischi precedenti. Sì. Però, dimmi. Sì, penso che l'impronta più folk e più europea potevamo darlo soltanto con quegli strumenti. Violoncello, sì. Violoncello è uno strumento che ha un suono meraviglioso. Sì. Anche l'aspetto è meraviglioso. Sì. Violoncello, vederlo dà un certo non so che, secondo me. Molto calore. Esattamente. È bellissimo. Ok, bene. Dobbiamo salutare. Mi saluto il blues del ponte. Salutare con il blues del ponte. Valerio Bileri, ti ringrazio di essere venuto qua a suonare da noi. Domani ci sarà una presentazione di un disco dei Central United, che è un gruppo di Bologna, un gruppo progressive. E giovedì la grande festa. Io vi do l'appuntamento appunto a giovedì sera dalle 3 ore, sai? 3 ore. Dalle 21 alle 24. Con le cuffie in testa. 3 ore a proporre musica di Natale, insomma, giusto per regalare agli ascoltatori proprio le chicche, le cose belle, insomma, di questo periodo natalizio. Sì, esattamente, di musiche non prettamente natalizie o natalizie, però in versione diversa, versione alternativa, come sempre a Blu Radio Sera, come sempre a Rock. Avremo 5 artisti, 3 cantanti e 2 musicisti. Bellissimo. Si chiamano White Voices e si inizierà alle ore 21, sempre qui a Blu Radio Veneto. Vi ricordo le nostre frequenze, allora ancora una volta, 88.700, 94.600, se ci volete ascoltare anche in streaming, audio, andando sul sito dell'emittente www.bluradioveneto.it, c'è appunto la scritta streaming, sotto c'è una freccetta piccolina nera sulla sinistra, cliccate lì e entrerete sempre comunque in diretta 24 ore su 24 con la nostra emittente. Valerio, noi ti ringraziamo di essere venuto qui in questi studi. Ti aspettiamo per la prossima volta. A marzo allora, quando verrai a Padova. Ci vieni a fare un salutino. Ok. E okay. Così restiamo con insieme. E cosa ci fai ascoltare? Blues del Ponte. Blues grazie. Del Ponte. Ciao Valerio. Sul fiume che non mi fa passare, c'è un'ombra sul fiume che non mi fa passare, ha il volto coperto e il mio stesso nome, oro e gioielli non possono bastare, oro e gioielli non possono bastare, mostra qualcosa ma non riesco a capire, da fare al di là del confine, e ho qualcosa da fare al di là del confine, un rosario d'ametista e una corona di spine. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.